Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara Radio 24, mi pare che ormai il diritto in Italia sia una carnevalata. Il sindaco di Roma chiede ai magistrati di non rimettere in libertà gli stupratori. Ci tengo a sottolineare che non lo chiede ai suoi amici di governo, ma appunto ai magistrati, tanto il giochetto di alimentare questa sete di giustizia vendetta porta voti. Qualche giorno fa, tre bravi ragazzi italiani hanno dato fuoco a un immigrato. Ci sarà una qualche relazione tra questi fatti? E se tra tre giorni verranno posti agli arresti domiciliari, chi se ne lamenterà? E gli striscioni di supporto allo stupratore della Fiera di Roma? A me la Bernardini non piace a prescindere, però l'incapacità di distinguere tra la solidarietà e la semplice verifica del rispetto delle leggi è preoccupante. Le derive non democratiche si alimentano soffiando sul fuoco dell'insicurezza e delle paure, e mi sembra che qui abbiano tutti paura. Io sono preoccupato. Caro direttore, qualche giorno fa, mentre ero in macchina, ho appreso da una trasmissione in onda sulla sua emittente che l'onorevole Rita Bernardini, del Partito Radicale, e Sergio D'Elia, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, si sono recati nel carcere di Rebibbia per verificare l'incolumità dei sei romeni accusati dello stupro di Guidonia. Questo ha suscitato la rabbia e l'indignazione di molti. Ora è chiaro che non mi voglio associare a chi si augura che l'onorevole Bernardini venga violentata o picchiata. Però capisco e in parte condivido la rabbia di quella gente che si è sentita ferita dal comportamento dei due illustri esponenti delle istituzioni, che invece di recarsi a trovare le vittime dello stupro, hanno preferito precipitarsi a verificare le condizioni di salute dei sei romeni accusati della violenza stessa. Questa mancanza di sensibilità misura in modo sintomatico la distanza che separa i politici dalla gente comune. Questo governo di destra, che durante la campagna elettorale ha accusato il governo Prodi e la sinistra in generale di incapacità sul fronte della sicurezza, non ha fatto nulla di concreto per rendere la giustizia veramente rapida e, a proposito, le faccio alcuni esempi. Riduzione dei gradi di giudizio in presenza di reati commessi in flagranza, abolizione della legge Gozzini, castrazione chimica per i violentatori. Un cordiale saluto, Giovanni. Caro direttore, come al solito si mascherano sotto una pseudo voglia di giustizia il razzismo e la xenofobia. Non ho sentito nessuna parola di vera condanna nei confronti di quelli che hanno bruciato vivo un clochard a Nettuno. Siccome sono italiani, sono solo ragazzate, cose da giustificare con la noia e con la mancanza di valori. I rumeni per reazione vengono malmenati, mentre gli italiani vengono giustificati. Solidarietà alla senatrice Bernardini. Christian. Gentile direttore, vorrei esprimere un'opinione in merito all'episodio di cui si è resa protagonista l'onorevole Bernardini. Ora l'istinto mi farebbe dire altre cose, ma cercherò di essere distaccato e di ragionare. La gente si sente a disagio e credo che il tutto nasca da una forte sfiducia nello Stato, dalla poca incisività nelle istituzioni e dall'inadeguatezza delle leggi che ci regolano. È mia opinione che chi, come l'onorevole Bernardini, occupa posti di dirigenza nella società, dovrebbe interessarsi affinché vengano associate pene ben più severe a reati così odiosi, invece di preoccuparsi dello stato dei detenuti. Io ritengo che le vittime di tali episodi di violenza si sentano come uccise e pertanto è doveroso da parte del potere legislativo considerare e tutelare prima di tutto le vittime, che un domani potremmo essere tutti noi. Qui non si tratta di distinguere tra etnie buone e cattive. La violenza sessuale è un reato a prescindere da chi la commette e l'autore deve essere punito, punto. Non sono nemmeno d'accordo con la concessione degli arresti domiciliari al responsabile dello stupro avvenuto a Roma a Capodanno, ma il mio disappunto non è tanto verso il magistrato, che avrà sicuramente fatto riferimento alla legge, quanto verso le leggi italiane, che danno troppo spazio all'interpretazione e poco all'applicazione. Cordiali saluti, Paolo. Caro direttore, sono letteralmente sconcertato di fronte ai provvedimenti lassisti adottati da alcuni magistrati nei confronti di chi, invece, si è reso protagonista di ignobili atti di violenza nei confronti delle donne. Mi riferisco alla decisione di concedere gli arresti domiciliari in luogo della detenzione in carcere, in attesa del processo, ad esempio, al cosiddetto stupratore di Capodanno. L'impressione è che, con il pretesto del rispetto della legge, alcuni tribunali facciano di tutto per agevolare il reo, e questo è intollerabile. A mio modo di vedere, c'è un solo modo per impedire che ciò continui ad accadere. Occorre, in primo luogo, vietare l'applicazione di misure alternative alla detenzione e, soprattutto, non bisogna concedere alcun beneficio a stupratori, pedofili, rapinatori ed estorsori. Ritengo, inoltre, che sia necessario raddoppiare le pene per questi reati e poi vietare tassativamente l'applicazione del patteggiamento e il ricorso al rito abbreviato. Sono alquanto pessimista, però, perché fino ad oggi, al di là della scontata indignazione, non c'è stato un parlamentare o un ministro che abbia proposto queste misure rigorose. Probabilmente non esiste la volontà politica di perseguire in maniera adeguata ed effettiva questi criminali. Guglielmo. Cara Radio 24, se iniziamo a dire queste persone non sono più umane e non devono più avere diritti, non siamo poi tanto diversi dai nazisti. Se ci rendessimo conto di tali affermazioni, probabilmente saremmo i primi a rinnegarci. La barbarie si combatte con la legge e il diritto. Dove non ci sono né legge, né diritto, né istituzioni, la violenza e l'ingiustizia fioriscono. La battaglia dei radicali è per la giustizia ed è una battaglia alta che va oltre le logiche del consenso politico e la Bernardini è una donna forte. Spero di sentire prese di posizione nette e chiare su questi temi da parte di Veltroni e Napolitano. Berlusconi non credo che potrà farlo visto che è alleato dei leghisti. Lettera firmata. Caro direttore, ieri mattina ho ascoltato allibito in una trasmissione della sua emittente le esternazioni di Toni Negri sulla vicenda Battisti. A differenza di quanto dichiarato dallo stesso Negri, io ritengo che nel nostro paese non c'è mai stata una guerra civile. Non c'era uno stato oppressivo che si accaniva contro questi intellettuali con il mitra o senza. C'era solamente un paese impaurito, vittima innocente dell'ideologia folle, animata da chissà quali motivi. Io non li ho mai capiti. All'epoca frequentavo le scuole medie, i miei genitori lavoravano e non imbracciavano un mitra e sinceramente nessuno di noi ha mai compreso la logica di quelle azioni. L'odio verso il capitalismo? L'odio verso gli americani? Qual era il senso? Perché si uccidevano innocenti in modo così vigliacco? Chi cerca di dare delle motivazioni politiche a quei gesti meriterebbe di essere rinchiuso in manicomio. Ma sono ancora molte le domande che mi assillano. È forse meno grave un omicidio se commesso per ragioni politiche? Perché si deve chiudere quella pagina se i colpevoli non hanno pagato? Come mai questi professoroni, indegni, non parlano mai delle vittime? Per me i sostenitori di quegli orrori sono responsabili quanto gli esecutori e in questo caso mi riferisco a Toni Negri. Cristiano. Cara Radio 24, quelli che parlano di una generazione intera che voleva ribellarsi sono ridicoli. Negli anni 70 uno sparuto gruppo di imbecilli voleva la rivoluzione. La maggior parte semplicemente non voleva responsabilità. Sono stati anni bui e chi li rimpiange fondamentalmente lo fa per questioni anagrafiche. Gli anni 70 vanno riscritti, non dimenticati o conciliati. Andrea. Vorrei porre l'attenzione su alcuni aspetti messi in evidenza dal caso Battisti & Company. A causa dei sinistri italiani e francesi, è evidente che l'Italia si porta dietro l'immagine di dittatura terzomondista che cerca di colpire dei poveri eroi che si sono battuti per la libertà. Ora è evidente che, a prescindere dalla sorte di Battisti, è importante risistemare l'immagine dell'Italia. Propongo di spendere un bel po' di euro per acquistare spazi sui giornali, francesi e brasiliani per partire, dove ribadire che in Italia dal dopoguerra c'è stata una repubblica, dove pochi disgraziati di sinistra o destra hanno causato centinaia di morti. Cosa peggiore è che questi personaggi combattevano una guerra assurda, persa comunque in partenza. Meglio ancora sarebbe riuscire a fare una prima serata e trasmettere una delle più equilibrate e ben fatte interviste sul terrorismo. Mi riferisco all'intervista a Mario Calabresi, intervistato da Antonello Piroso qualche mese fa sulla 7. Penso sia giusto far capire a due popoli che ci sono tutto sommato amici che stanno prendendo una cantonata mostruosa, oltretutto offendendo in modo pesante il popolo italiano. È necessario impegnarsi per far capire al mondo che l'Italia ha una giustizia disastrata, sì, ma ultra garantista. Tanto è vero che ormai quasi tutti i brigatisti sono fuori. È giusto far capire che questi figuri sono poco più che invasati. È ora che l'Italia curi di più la sua immagine all'estero, a costo di entrare nella casa di ogni francese o brasiliano e far conoscere veramente la nostra storia, i nostri morti. Grazie, Guglielmo. Cara Radio 24, io lavoro in Gran Bretagna e ho immediatamente chiesto ai miei colleghi inglesi che cosa ne pensassero dello sciopero alla Total contro i lavoratori italiani della IREM. Risposta? Non ne sapevano nulla. Tutto sommato sono solo 90 operai, stiamo parlando di un unico appalto, non di una presa di posizione del governo. Non ne facciamo un caso, in Inghilterra non ne parla nessuno. Lettera firmata. Gentile direttore, in merito alla questione dei diritti dei soggetti riconosciuti come stupratori, vorrei suggerirle un argomento per aiutarla ad andare oltre questa questione. Le faccio un solo esempio. Sopra i tralicci dell'alta tensione è scritto a chiare lettere pericolo di morte, in modo che chiunque sia informato sulle conseguenze mortali del contatto con queste strutture. Compiere reati gravi, omicidi e stupri, dovrebbe essere considerato come avvicinarsi a un traliccio dell'alta tensione. Il malvivente, anche se non ha rispetto per gli altri, fuori di metafora, eviterà di commettere reati per non mettere a rischio la sua vita. Ci vuole la certezza della pena, perché se uno conosce la pena che potrà subire in caso di reato, allora starà a lui evitare di fare errori. Giacomo, Roma. Cara Radio 24, vorrei intervenire per affermare che i giudici devono applicare la legge e non seguire la folla. Le leggi però in democrazia devono assecondare il volere del popolo e non devono essere imposte dai politici che si sentono per diritto acquisito educatori delle masse. Le leggi esistono proprio per evitare cose come il giudizio a caldo e i linciaggi. Ma le leggi, ripeto, devono rispettare il sentimento del popolo, altrimenti non sono leggi democratiche. Marcello, Roma. Caro direttore, il 2 febbraio ho preso il treno S10 proveniente da Bellinzona in orario alle 19.13 alla stazione di Mezzovico e sono arrivato in orario alle 19.59 a Chiasso. Poi abbiamo aspettato diversi minuti prima di ripartire da Chiasso. Poi il convoglio ha esitato sui binari altri minuti prima di raggiungere Como SG. Poi altri lunghi minuti all'ingresso della stazione Albate Camerlata, dopo l'annuncio di termine corsa. Il tutto per un totale di 9 minuti di ritardo su 10 di tratta. Dobbiamo concludere che la neve a sud del confine è più pesante di quella in Svizzera? Saluti, Giancarlo. Vorrei intervenire su una faccenda che trovo abbastanza disturbante, ossia che in Italia si tendano a cancellare tutti i nomi femminili delle professioni. Questo è l'esatto opposto di quel che succede in moltissimi paesi, con l'eccezione di quelli di lingua inglese, ma noi non siamo latini, e che, secondo me, sotto sotto discende dall'attitudine maschilista di sminuire tutto quel che è femminile. Mi riferisco a ministro e ministra, deputato e deputata, cancelliere e cancelliera, segretario di Stato e segretaria, eccetera. L'assurdo si raggiunge quando il sostantivo femminile esiste ed è usato da sempre nella lingua come direttrice, ma al quale chissà perché si preferisce direttore, o con perle grammaticali come il ministro è spirata e varie altre. Vorrei anche far notare che in italiano si potrebbe dire indifferentemente il presidente o la presidente. Non invoco la presidentessa che pure esiste da sempre, ma per un oscuro motivo il maschile è preferito. Ministra viene utilizzato senza problemi in francese, spagnolo, tedesco e svizzero italiano, mentre da noi viene utilizzato in genere per burlarsi della malcapitata. Non direi che vale la regola che in questi casi il maschile si riferisce indifferentemente ai due generi, e comunque perché non fare il contrario, dato che la Costituzione si preoccupa di specificare cittadine e cittadini e di lavoratrici e lavoratori, come anche molte altre leggi, anche recenti, per esempio la 626 sulla sicurezza sul lavoro. Insomma, che ne pensate? Come mai questa epurazione delle professioni femminili? Fra poco diremo l'attore Sabrina Ferilli? Giovanni, Ginevra. Caro Giovanni, le ragioni che stanno portando a lasciare invariati al maschile i nomi delle professioni e degli incarichi non sta nel tentativo di sminuire la presenza delle donne, ma al contrario, nella volontà di non discriminare la presenza femminile. È quasi come se si volesse introdurre una terza declinazione tra il maschile e il femminile, il neutro con cui definire titoli e competenze, senza far prevalere né il maschio né la femmina. E così abbiamo il presidente e l'avvocato, che diventano al di sopra dei generi con una spiccata volontà di essere politicamente corretti. Ma questo anche perché in atti ufficiali, pensiamo agli statuti delle società, c'è bisogno di indicare queste posizioni prescindendo dal fatto che ad occuparle possa essere un uomo o una donna. Il presidente è presidente, un ruolo, una posizione, definito in sé e per sé. Questo per quanto riguarda ovviamente la funzionalità giuridico-economica. Lascio però ai linguisti l'arduo compito di definire come giudicare e indirizzare questa evoluzione. Egregio direttore, in questi giorni si parla di sconti sull'acquisto dell'auto. Arriveremo mai a erogarli facendone beneficiare chi paga le tasse predisponendo una detrazione sul 7,30 invece dello sconto? A proposito dello sconto, poi, ne beneficerà maggiormente chi non paga le tasse. A novembre un idraulico ha avuto la sfrontatezza di darmi una fattura per un lavoro numerata 8 del 2008. Grazie, Andrea. Siamo una coppia di operai 48enni, di cui uno part-time per gravi problemi familiari. Una vita semplice, poche uscite, vacanze rare e al risparmio. Alcuni mesi fa, come tanti, abbiamo subito forti ripercussioni sul nostro gruzzoletto di risparmi per le pesanti questioni relative alle banche. Chi non ha mai voluto rischiare perché è cosciente di non averne le competenze e si fida dei consigli del bancario che conosce dalle elementari, forse è ora che si svegli e si renda conto che l'onestà e la moralità sono cose che si insegnavano solo a dottrina da piccoli. Forse è vero, nessuno ruberà, ma noi cittadini siamo molto generosi e ingenui. Cordiali saluti, Ivano e Lorella. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.